sono quell'amico che credeva di essere sicuro di sé. Con la sua sigaretta, la sua birretta bionda, spaccava il mondo e si sentiva forte con te. Perché la sua forza lui la trovava in te, dentro di te. La la la la la la la, la la la la la. Fumo nei locali, le fili Morris gialle e i tuoi capelli neri che disegnavano le spalle. Io ero lì con te alle cantine riso, perdonami ma lì tu eri già il mio chiodo fisso. Perché anche prima di quella sera c'eri te con me, dentro di me. La la la la la la la, la la la la la. Cos'è rimasto della ragazza che se la cerchi la troverai sicuramente in te? Perché dietro le paure che nasce il tuo sorriso, che ha dato un senso al nostro angolo di paradiso. Non esiste un limite, non ci sono regole prestabilite. Perché in amore è facile rimpiangere il passato, almeno vorrei non essere dimenticato. Cos'è rimasto della ragazza che se la cerchi la troverai sicuramente in te? Perché dietro le paure che nasce il tuo sorriso, ricordati del nostro angolo di paradiso. Ciao, come stai? Ricordi, sono quell'amico che è innamorato di te.